Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Sono arrivata qui all'inizio perché scappavo dalla mia realtà napoletana. In effetti forse è improprio parlare di nostalgia, più che altro di rimpianto per quello che avrei potuto fare. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi abbiamo aperto la puntata con la testimonianza di una giovane connazionale all'estero. La sua e altre voci di emigrati accompagneranno per 3 settimane l'inizio della nostra trasmissione. A metà febbraio ve ne sveleremo la provenienza. Per ora prendeteli come dei messaggi in bottiglia. Oggi restate sintonizzati su questo programma, torneremo a parlare di innovazione, quella vera, quella made in California. Tutti i cambiamenti e le progressioni di carriera sono stati basati sul merito e sul coraggio di intraprendere sempre nuove sfide. Qui in Silicon Valley è molto facile, se uno vuole, cambiare e progredire. Simone Morellato, 34 anni, è un senior technical marketing engineer per Cisco in Silicon Valley, dove ha creato anche una sua azienda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. A quasi 3 anni dallo scoppio della crisi, la disoccupazione resta elevata in Europa. Quella giovanile in Italia è molto più alta della media comunitaria, così la Commissione europea. Il dato dei 2 milioni di giovani che non studiano né lavorano è drammatico, secondo la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, e il governo annuncia ammontano a circa 1 miliardo le risorse finora destinate a favorire l'occupazione dei giovani. Per il mensile Job, quasi la metà dei giovani milanesi è disponibile a cercare fortuna all'estero. Secondo la Camera di Commercio Meneghina, 3 giovani su 4 sono pronti per una sfida al di là delle Alpi. Potrebbero fare rotta verso il Brasile, dove il governo cerca lavoratori qualificati italiani, spagnoli e portoghesi da inserire nell'industria. E torniamo oggi su una ricerca che qualche settimana fa suscitò un certo clamore. Dal 1989 ad oggi l'Italia ha perso 4 miliardi di euro a causa della fuga dei cervelli, lo sostiene l'Istituto per la Competitività, il suo presidente Stefano D'Empoli. Noi siamo andati a vedere solo il valore economico della perdita derivante dai migliori scienziati italiani che sono andati all'estero. Per la precisione, i primi 20 scienziati italiani che sono andati via all'estero. Quindi il totale sarebbe addirittura maggiore? Quindi il totale sarebbe assolutamente maggiore. Voi stimate in 148 milioni di euro la perdita per ogni cervello in fuga. Come ci siete arrivati a questa cifra? Estrapolando il numero dei brevetti che uno scienziato di alto valore può produrre durante tutto l'intero arco della vita professionale, avendo individuato un valore medio dei brevetti in circa 3 milioni di euro, sostanzialmente siamo arrivati a quel dato. Laureati e laureandi potranno candidarsi fino al 4 febbraio per il programma Asso Camera Estero Fondazione CRUI, che offre tirocini presso le camere di commercio all'estero. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un manager per le relazioni istituzionali presso BASF a Colonia, scadenza per i CV 5 febbraio, info a jobs@basf.com. L'istituto Lo Langvin di Grenoble cerca un capo del settore amministrativo, scadenza per i CV 6 febbraio, info su il.eu. E infine un ricercatore economico allo European Credit Research Institute di Bruxelles, scadenza per i CV 31 gennaio, info su ecri.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Silicon Valley, dove da decenni si progetta il futuro dell'innovazione e della tecnologia. Nome: Simone. Cognome: Morellato. Età: 34 anni. Città di origine: Trevignano, paese in provincia di Treviso. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? In Silicon Valley. Perché? Stage con la mia laurea in ingegneria informatica. Quale lavoro svolge attualmente? Ho la mia azienda di iPhone Apps e lavoro in marketing per Cisco. Dove? Sempre in Silicon Valley. Tornerai? Per ora no, però magari in futuro sì. La carica di Bruce Springsteen, The Boss, per introdurre la storia di Simone Morellato, un altro dei nostri giovani brillanti talenti al lavoro nella Silicon Valley. Ricorderete tutti come a fine ottobre abbiamo ospitato proprio su queste frequenze la storia dei giovani fondatori del sito Mashape, che in California hanno potuto dare vita al loro progetto. Oggi torniamo sul luogo del delitto per parlarvi di un'altra bella storia, quella appunto di Simone. Simone, nell'email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it fai una riflessione molto interessante. Qui in California nessuno ha problemi a lavorare anche 10 ore al

nasce dalla mia prima app, che è tuttora una delle più vendute, che si chiama Easy Search. L'idea era quella di creare un'interfaccia più facile e intuitiva ai servizi di Google. È stato solo appunto con l'avvento dell'iPhone e dell'Apple Store che questa mia idea ha trovato il suo naturale mezzo di realizzazione e vendita. Dopo appunto il successo di Easy Search abbiamo deciso di fondare l'azienda e lanciare pure altre app. Comunque, per ora l'azienda è ancora piccola, ma continuiamo ad espanderci e produrre applicazioni sempre migliori e divertenti. In bocca al lupo, Simone. Ci raggiungerà in linea Silvano Gai, Cisco Fellow da 14 anni in Silicon Valley, uno degli italiani più importanti all'interno del colosso americano. Gai, allora, qual è il segreto della Silicon Valley che non solo consente ma stimola anche i più talentuosi a mettersi in gioco personalmente, a rischiare persino quando si ha un lavoro già sicuro? La Silicon Valley è industrialmente molto molto attiva. È un po' la punta di diamante dell'industria, specialmente informatica, delle telecomunicazioni americana, e quindi ci sono moltissime possibilità per i giovani di inserirsi all'interno di questa industria. Essendo questa industria molto innovativa, cerca disperatamente giovani che abbiano voglia di fare innovazione e di mettersi a lavorare molto seriamente su aspetti veramente innovativi. E li premia se meritano, vero? Li premia, ma li premia non in una maniera esagerata, li premia con un proseguimento di carriera abbastanza naturale. E questo in Italia secondo lei avviene? Secondo me avveniva. L'Italia si è molto deindustrializzata. Io penso che il problema sia per il giovane italiano non sia tanto che non si trova lavoro, magari anche quello, ma non si trova più lavoro nell'industria, perché ovviamente l'industria informatica e l'industria delle telecomunicazioni in Italia ormai praticamente non ce n'è più. Gai, tra poco torneremo con lei. Simone, domanda di rito prima di dare la linea al traffico: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Per quanto riguarda l'innovazione, vedo che c'è anche in Italia, ci sono tantissime aziende innovative, però sono un po' più di piccole dimensioni, tante ancora gestite come aziende artigianali, mentre in America uno degli obiettivi principali è la crescita costante, la ricerca è costante raddoppio degli utili. In Italia questa ricerca appunto a monetizzare le idee e l'innovazione un po' manca. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Simone Morellato, 34enne Senior Technical Marketing Engineer al lavoro per Cisco in Silicon Valley. Simone vi è giunto dopo una laurea in Italia, uno stage non retribuito in un'azienda informatica veneta, a cui ha fatto seguito l'occasione della vita, una internship presso Cisco retribuita con abitazione pagata. Da lì l'inizio della sua avventura americana, che ha coperto l'arco dell'ultimo decennio, nel quale Simone ha ottenuto più incarichi, arrivando persino a fondare una sua azienda di applicazioni per iPhone. Ci raggiunge ora in linea Roberto Mari, Product Manager e responsabile marketing della linea di prodotti data center della Cisco. Roberto, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Torino, a tornare in Italia ci ha provato a metà degli anni 2000, dopo 5 anni di lavoro negli Stati Uniti per Cisco. Roberto, perché l'hai fatto e in quale veste sei rientrato? Ma soprattutto, com'è andata? Le ragioni per il rientro secondo me sono abbastanza personali. Nel mio caso si trattava di un riavvicinamento alla mia famiglia e ai miei luoghi di origine. Qui in Silicon Valley ho lavorato per circa 6 anni come ingegnere del software, lavorando per sviluppo di protocolli e architetture di rete. Cercando di rientrare in Italia ho dovuto cambiare un po' il mio profilo di lavoro, anche perché le opportunità nell'ambito di ricerca e sviluppo in Italia non sono molte, quindi ho scelto di rientrare come consulente e quindi più lavorando sul lato business e clienti. Poi però tu rientri, descrivi una situazione diversa. La società italiana viaggiava ad anni luce da quello che era il mio standard lavorativo negli Stati Uniti. Stipendio ridotto, costo della vita altissimo, tante tasse da pagare, pessimi servizi. Roberto, domanda obbligata. È ancora un paese dove fa piacere progettare un futuro, l'Italia? Sì, diciamo, nel mio rientro in Italia è stato progettato comunque lavorando per la mia azienda americana e trasferendomi a Roma lavorando per loro. Questo è stato fatto in base a due considerazioni, sia lasciare una porta aperta per rientrare negli Stati Uniti, sia lavorare per un'azienda per cui la culture fosse comunque compatibile con quella che era stata la mia formazione professionale. Devo dire che dal punto di vista lavorativo ho incontrato persone molto valide e molto in gamba, però al di fuori di questa isola felice, diciamo, degli uffici della Cisco Roma, ho trovato, diciamo, diverse contraddizioni. Il costo della vita abbastanza alto e un salario non proporzionato a quelle che erano le spese, soprattutto avendo una famiglia, una moglie, un figlio e pochi servizi. Diciamo che è difficile in un paese come l'Italia per un giovane progettare un futuro e costruirsi un futuro. Colpiscono altre tue parole. In Italia la conquista di un posto al sole passa per scorciatoie, compromessi, la giustificazione di ogni mezzo, anche se viola le regole. Pure nel mercato del lavoro e professionale è per questo che i giovani di talento, secondo te, quelli non raccomandati, devono emigrare o riemigrare? Come italiani il nostro punto di forza è quello di saperci creare una rete di relazioni con delle persone, comunque qui si chiama networking. Spesso usiamo questa nostra capacità più che per farlo in modo virtuoso per agire agli ostacoli invece che affrontarli. Quanto sei rimasto in Italia prima di tornare in America? Sono rimasto circa 2 anni. Silvano Gai, lei consiglierebbe a giovani professionisti di talento un rientro in Italia? È difficile consigliare a qualcuno qualcosa che non sarei disposto a fare io, quindi in generale no, però possono esserci senz'altro delle eccezioni. Ci sono dei giovani che magari hanno aziende di famiglia o che hanno buoni inserimenti in aziende di primo piano. Dipende anche molto se uno vuol fare lavoro strettamente tecnico e di progettazione, allora l'Italia probabilmente non è il posto giusto, ma se uno vuole affrontarsi di più ad un lavoro di marketing o un lavoro legato alle vendite, allora senz'altro in Italia ci sono ancora tante opportunità. Grazie a Silvano Gai e grazie a Roberto Mari, e chiudiamo con Simone Morellato. Domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Io consiglio sicuramente di provare. Non c'è niente da perdere, al massimo c'è da guadagnare. Che sia l'Europa, l'America, l'Asia, secondo me non fa differenza. L'importante è che uno abbia questa esperienza internazionale. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi riapriamo la nostra finestra su italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di espatriati italiani. Andiamo in Turchia. Stefano Donzelli, amministratore di Yol Istanbul. Yol Istanbul è nata nel 2005, conta più di 200 iscritti. Parlando degli iscritti, che tipo di profili hanno? Gli italiani che stanno arrivando oggi in Turchia sono giovani, sono laureati, professionisti? Il profilo è molto cambiato. Io sono a Istanbul dal 2002. 8 anni fa quasi tutti gli italiani che erano a Istanbul erano più che altro espatriati, mandati dalle casa madre dell'azienda italiana nella loro filiale in Turchia. Oppure c'erano veramente poche persone, specialmente donne, sposate con una persona di nazionalità turca. Negli ultimi anni c'è stato un grande incremento di italiani venuti un po' all'avventura in Turchia o per amore o per cercare lavoro, ma ultimamente dalle mail che ricevo sono sempre più ricerche di lavoro di italiani che non hanno sbocchi professionali in Italia. Cioè vengono in Turchia dall'Italia per trovare lavoro? Sì, insoddisfatti dalle condizioni italiane. Sembra comico, ma è uno specchio dei tempi. Non hanno possibilità di lavorare in Italia, cercano di buttarsi sui paesi emergenti. La Turchia è un paese che ovviamente ha delle crescite in produzioni e in PIL a livelli cinesi. E quali sono i settori professionali dove trovano più facilmente lavoro i nostri giovani? Se una persona arriva non con particolari competenze, si butta sui settori trainanti dell'economia turca, che sono quello tessile, turismo, materie prime, mobilia, lavora nel settore dell'export. Invece le persone qualificate trovano lavoro in tutti i campi, diciamo, specialmente in aziende internazionali. La lingua non è un problema? La lingua infatti è un problema per le persone non qualificate, che si devono più o meno buttare nel settore export per interfacciarsi solo in inglese con l'azienda turca e poi viaggiare in Europa. Senza sapere il turco difficilmente si può trovare una posizione stabile in Turchia. Quali sono le attività di Yol Istanbul in particolare? In particolare noi abbiamo iniziato trovandoci una volta al mese con le classiche cene, brunch. Ora abbiamo espanso le attività in gite fuori porta. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Istanbul.